Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, l'appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera. Andiamo a curiosare tra i magazine in cerca di articoli da leggere, di curiosità, di questioni che possono in qualche modo interessarci. Cominciamo questa mattina con una notizia che ho trovato su Nouvel Observateur, settimanale francese, che viene intitolata significativamente l'arma segreta anti-telefonini. Allora, io non lo sapevo, poi in realtà ho fatto anche delle ricerche ulteriori incuriosito da questo articolo di Nouvel Observateur, ma esistono già in commercio, in modo diciamo assolutamente non legale, degli attrezzi che consentono di zittire i telefonini, e devo dire è un po' il sogno che viene qualche volta accarezzato da tutti noi quando capita di dover condividere con qualche estraneo, magari sul treno, magari in altri spazi più o meno pubblici, le conversazioni di altri, e quindi così dover sopportare di buono o di meno buono grado tutte le narrazioni delle vicende personale di un altro. È quello che infatti costituisce anche l'attacco dell'articolo di Jérôme Hordeux, il quale dice: chi non ha mai sofferto di una insofferenza da portatile, un vicino di treno che continua a raccontare la sua vita privata a voce alta, un ragazzo che passa la serata a inviare sms magari appunto nel corso di una cena, di un'occasione conviviale, o ancora un amico che risponde quando state mangiando, vi chiama proprio quando state mangiando. Insomma, servirebbe in qualche modo la maniera di spegnere, di poter zittire i telefonini, più che il proprio, che è relativamente facile naturalmente, basterebbe spegnerlo, anche se molti di noi si sono oramai abituati a convivere con il telefonino perennemente acceso, più che il proprio, dicevo, quello altrui quando può disturbare. E allora ho scoperto che esistono questi disturbatori di portatili, come li chiama appunto Nouvel Observateur. Il loro nome, però, se volete informarvi sulla questione, è Jammer, che appunto sta più o meno per procuratore di fastidio, ecco. Sono consentiti, però, bisogna dirlo, solo per uso domestico in praticamente nessuno degli stati, Francia, Italia, Stati Uniti, in cui si trovano così reclamizzati questi apparecchi. È consentito usarli in pubblico, quindi chi lo fa a proprio rischio e pericolo commette un reato. Ma se vi capita che improvvisamente il vostro telefonino non riceva più, non abbia più campo e in modo inspiegabile, potreste essere finiti anche nel mirino di uno di questi appunto jammer, questi disturbatori di portatile. In Francia, poi ci informa Nouvel Observateur, se si viene pizzicati a utilizzare questi disturbatori, costa da 30.000 euro di multa fino a 6 mesi di prigione. Però dice, questo è un po' in teoria, perché quest'arma antiportatili non è così facile scoprirla. I modelli più cari sono molto molto piccoli, hanno un raggio d'azione da 3 a 5 metri. Se volete un raggio d'azione ancora più ampio, dovete pagare qualche cosa di più. Però appunto lo ricorda anche un box, un piccolo articolo collegato a questo di Hordeaux, però assolutamente vietato utilizzare questi strumenti all'aperto. Viene consentito appunto solo l'uso per in casa propria. E va anche detto che si trovano, non ne parla qui il Nouvel Observateur, ma si trovano offerti sui siti internet, ad esempio, dei modelli particolarmente camuffati, ad esempio da pacchetto di sigarette, quindi rendono ancora più difficile il poter individuare l'utilizzo di questa arma anticellulare che, ripeto, per finire da dove abbiamo cominciato, qualche volta quando dobbiamo sopportare qualche conversazione altrui particolarmente insistente potrebbe anche essere uno strumento utile. E allora, visto che stiamo parlando di spazi pubblici, parlavamo di treni, parlavamo appunto di telefonini che ci disturbano, che possono essere usati in modo da disturbare, vi voglio parlare di un articolo che è apparso su Vanity Fair questa settimana. L'articolo è Ultima fermata Rebibbia, lo ha scritto Gabriele Romagnoli, il quale ha fatto una di quelle inchieste un po' fuori dal consueto, cioè cosa ha fatto? Ha preso la metropolitana a Roma. Voi direte, beh, non è un particolare sforzo. No, certo, ma se questo viene utilizzato per poter raccontare come la società sta cambiando, allora anche l'articolo assume tutto un altro significato. Da fare da guida, in qualche modo, a Gabriele Romagnoli nel suo viaggio dentro la metropolitana romana sono stati i libri di Marc Auger. Marc Auger è un sociologo, un antropologo culturale, ed è noto non solo tra gli addetti ai lavori perché ha teorizzato appunto lo studio delle civiltà moderne, della nostra civiltà, attraverso l'osservazione dei nostri riti, dei nostri modi di vivere, un po' come appunto fanno gli antropologi, gli etnologi quando si recano presso le località delle tribù più primitive per studiarne gli usi e i costumi. Ebbene, Auger ha proprio teorizzato lo studio dei nostri comportamenti, che so, negli aeroporti, nei metro, eccetera, e tra l'altro è anche colui al quale dobbiamo il concetto di non luogo, cioè di luoghi che tendono a ripetersi, a replicarsi in parti diversissime del mondo, come possono essere gli aeroporti o i fast food, costruiti un po' sempre allo stesso modo, quasi per rassicurare, costituire appunto una sorta di luogo che è a prescindere dal posto in cui viene collocato. Allora, cosa scrive Romagnoli partendo da queste considerazioni di Auger? Parte proprio dall'antropologo e dice: più volte in America Latina, è la citazione di Auger, sono rimasto colpito dal fatto che il metrò vi giocasse il ruolo di spazio pubblico esemplare. Per esempio a Caracas il metrò è un'oasi di pace e di lusso, tutti sembrano saperlo, tutti rispettano questo stato di fatto. Si può pensare che il rispetto sia contagioso e che in uso a uno spazio pubblico in cui la ricercatezza estetica sia un omaggio agli utenti, questi utenti ne restino sensibilizzati, si comportino di conseguenza. Insomma, in un posto tenuto bene, chi poi lo frequenta si sente più motivato a comportarsi bene, a comportarsi correttamente. È la teoria che osa Romagnoli delle finestre rotte di Rudy Giuliani. Quando era sindaco di New York disse: se lasci in vista un vetro spaccato, presto ti troverai l'edificio distrutto. E Questo tipo di teoria non sembra peraltro molto applicabile, a giudicare dal racconto di Romagnoli, alla metropolitana di Roma. Perché, dice, salito in metropolitana, la prima cosa che si nota è l'assoluta varietà delle nazionalità presenti. La metropolitana di Roma, come un po' direi tutte le metropolitane del mondo, delle grandi città del mondo, è piena di persone di tutte le provenienze. È piena di neri, scrive Romagnoli, di ucraine, di romeni con il pranzo nello zaino, di orientali che parlano fitto, mentre gli indigeni, cioè i romani, tacciono. Sopra, dice Romagnoli, cioè all'aperto, fuori dalla metropolitana, puoi ancora cianciare di identità, respingere la società multiculturale, multietnica, multiuso, se vuoi. Sotto, nel metrò, è un fatto, non si scende più. E nemmeno si sale, dice, perché il metrò ovviamente è stipato, cosa che purtroppo capita spesso, capita non solo a Roma, viene da dire. E quello che nota Romagnoli è che anche la comunicazione nella metropolitana cambia improvvisamente. Ci sono una televisione e una stampa alternative. La seconda è il vero fenomeno. Dicono ci sia bisogno di 6 reti per controllare l'Italia, ma se il paese è questo, sotto la superficie è meglio controllare la Free Press. Sarà anche vero che altrove non è così importante, ma qui prospera. La leggono tutti e con attenzione. I titoli degli unici 2 quotidiani a pagamento che conterò nel mio viaggio parlano di Obama e dei cinesi, di Feltri, di Boffo, di Morgan, del nulla. Sulla Free Press ci sono raffinerie che chiudono, adolescenti da controllare a vista, Totti. È la stampa, bruttezza, quella che ancora sporca le dita e i pensieri, mica il blog della porta accanto. E così prosegue poi il suo viaggio prendendo le varie linee. Naturalmente non mancano i cosiddetti esclusi, lo stesso Auger appunto, che è l'ispiratore di questo viaggio di Romagnoli. Il metrò è anche il rifugio degli esclusi, è un battito del cuore al quale s'attaccano coloro che hanno ancora la forza di suonare un brano di musica, canticchiare una canzone, proclamare la propria miseria. Nota in chiusura Romagnoli che a New York o Parigi la metropolitana sembra un luogo più interclassista, dove ci puoi trovare davvero l'avvocato, magari l'avvocato del diavolo, rifacendosi a un famoso film con Al Pacino, ma qui a Roma sta solamente sicuramente in strada, viaggia con lo scooterone. I due mondi, quello che sta al di sopra e quello che sta al di sotto nella metropolitana, non comunicano e le possibilità di passare dall'uno all'altro sono infinitesime. Questa la notazione che fa in chiusura Gabriele Romagnoli su Vanity Fair di questa settimana. Avviamo in un minuto un discorso che poi riprendiamo appena dopo la pausa per il traffico, quello dei bamboccioni. Ogni tanto ne parliamo perché i settimanali, i magazine sono effettivamente appassionati di questo tema. Ci ritorna con dovizia di particolari Famiglia Cristiana, si fa presto a dire bamboccioni, cerca di esaminare Famiglia Cristiana quali sono i motivi per cui la permanenza dei giovani italiani in famiglia è così prolungata. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, ci eravamo lasciati qualche attimo fa parlando dei bamboccioni, argomento che ritorna, che tende a ritornare sui settimanali, questa volta Famiglia Cristiana, questa settimana si occupa appunto di questa tendenza a prolungare la permanenza in famiglia. Si fa presto a dire bamboccioni, è l'inchiesta che è stata condotta da quattro giornalisti, Renata Maderna, Maria Gallelli, Giulia Cerqueti e Orsola Vetri. Sono i quattro colleghi di Famiglia Cristiana che si sono occupati di mettere un po' in ordine dimensioni e motivi del fenomeno. Allora, soprattutto la mancanza di denaro naturalmente per l'autosufficienza pesa. Quattro giovani su 10 tra i 30 e i 34 anni vivono con i genitori, 8 donne su 10 invece sono già uscite di casa, quindi è una tendenza che si configura più marcatamente presso i maschi che non presso le femmine. Il 47% di chi rimane in casa spiega di rimanere con i genitori per mancanza di denaro. Il 43% dei giovani che escono di casa tra i 18 e i 39 anni lo fanno in occasione del matrimonio. Il 28,1%, quindi una percentuale un po' più ridotta, per essere indipendenti. Ma secondo i dati Istat che vengono ripresi appunto da Famiglia Cristiana, su 10.000 giovani intervistati tra 18 e 39 anni, il 72,8%, fa grosso modo 3 su 4, è ancora a casa. Soltanto la metà di quelli che 4 anni fa avevano detto di essere in procinto di andarsene ha poi mantenuto la parola, quindi c'è proprio una resistenza a uscire. I soldi per campare, e lo riferisce una delle statistiche citate da Famiglia Cristiana, provengono per lo più dalle famiglie stesse. C'è una statistica che mette a confronto i comportamenti in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, e l'Italia risulta molto mal posizionata quanto a capacità di sostentamento dei giovani da un lavoro regolare. Solo il 37% dei giovani è in grado di mantenersi, di avere una disponibilità economica grazie a un lavoro regolare, mentre i parenti pesano ancora per il 50%, i parenti o il partner, quindi il marito, la moglie, il convivente. Ci sono poi delle statistiche che si occupano della tendenza a rimanere dai genitori in tutta Europa, sono un po' impietose perché, ohimè, l'Italia risulta decisamente prima, con percentuali molto elevate, come vi dicevo, specialmente tra i maschi tra i 18 e i 34 anni, e un po' più bassa la percentuale delle femmine, però siamo comunque sopra il 50% in entrambi i casi. Il paese che si posiziona secondo in questa particolare classifica è la Spagna, dove i maschi che vivono ancora in famiglia appunto tra il 18 e i 34 anni sono inferiori di poco al 50%, un po' meno le femmine. Al primo posto per volontà di lasciare subito la casa familiare è la Danimarca, dove non si arriva neanche al 20% dei maschi che convivono con i genitori e neanche al 10% delle femmine che convivono con i genitori. Questi i numeri che ci dà Famiglia Cristiana. Ci aggiungo una segnalazione dal venerdì che avete trovato ieri con Repubblica: bamboccioni, tutto il mondo è paese, anche in Svezia i ragazzi restano a casa. Addirittura in Canada, è un paese che non era considerato dalle statistiche anche individuati dai colleghi di Famiglia Cristiana, in Canada il 43,5% di giovani al di sotto dei 30 anni è ancora con mamma e papà. È evidente che questo tipo di comportamento è dettato soprattutto, ed è come riferisce Famiglia Cristiana, dalla difficoltà di trovare un sostentamento stabile e sufficiente per lasciare la casa dei genitori. Ma probabilmente giocano anche altre considerazioni. Da ieri avete trovato in edicola con il Sole 24 Ore il nostro mensile Il Intelligence in Lifestyle. Come ogni mese Il dedica la sua copertina a un tema che poi viene sviluppato ampiamente nelle pagine centrali. Materia prima è il titolo di questa copertina. In un mondo dominato dal virtuale, spiega la copertina stessa, la terra e i suoi frutti tornano al centro delle grandi strategie e dei nostri sogni. Una tendenza al ritorno all'agricoltura, alla coltivazione della terra, ma di questo vi posso già anticipare che parleremo più diffusamente domani mattina alle 8:30 proprio con chi qui al Sole 24 Ore si occupa di Il, ed è Walter Mariotti che sarà con noi domani mattina. Vi segnalo intanto alcune cose che ho visto interessanti su questo numero di Il, lo trovate, ripeto, anche oggi, anche domani in vendita con il nostro quotidiano. Ci si occupa tra l'altro molto di neve e sci. Allora, una bella coppia di pagine che trovate all'inizio del giornale parla di far verde la neve, si parla di cannoni sparaneve. La stagione è quella giusta, tra l'altro siamo in periodo di settimane bianche, tutti oramai siamo abituati a vedere questi mezzi artificiali che sono in grado di innevare le piste quando non c'è appunto la materia prima per sciare. Però quello che spiega Il è che si sono fatti parecchi passi avanti dal 1950. Il primo modello che in qualche modo era stato messo a punto somigliava un po' a una slitta per l'innevamento, per arrivare fino a un mostro ecologico che è attualmente brevettato in Israele, che è in grado di non solo produrre neve ma anche di recuperare l'acqua che viene sprecata nel processo. Il modello forse più comune nelle nostre piste, nelle piste di casa nostra, è la Lancia. Il modello è del 2007, quindi molto recente, un generatore di neve leggero ma molto efficiente. All'interno della testa della Lancia ci sono tre nucleatori, ci sono 12 ugelli fissi, 10 regolabili, con un sistema che evita anche il congelamento. Costa questo tipo di Lancia tra i 10 e i 14 mila euro. Questo per dare un'idea delle spese che devono poi affrontare le località sciistiche per poter garantire ai propri appassionati la disponibilità della neve. Molto interessante anche nelle stesse pagine la storia degli impianti di risalita, una sorta di micro storia degli impianti di risalita. Tra l'altro, il primo progetto di un trasporto meccanico a fune è del 1600, per la precisione del 1616. Fausto Venanzio, vescovo, umanista, filosofo, croato veneziano, ideò appunto il primo progetto di trasporto meccanico a fune, che è poi il papà, o forse meglio il nonno, dei vari impianti di risalita che possiamo trovare ancora oggi. È del 1644 il progetto del sistema di risalita ad ancora, lo ski lift ad ancora, che ora non si vede quasi più, ma forse gli ascoltatori non più giovanissimi come me se lo ricordano. E del 1915 l'entrata in scena del cavo elettrico cambia per sempre, come spiega Il, la storia delle funivie, che durante tra l'altro la prima guerra mondiale conoscono un periodo di grande fortuna proprio legato alle necessità belliche. La seggiovia è un'idea del 1936 e attualmente, cioè nel 2009, proprio l'anno scorso, è stata messa in funzione l'ultima generazione di funivie. Si chiama 3S, dal tedesco Dreiseil, tre funi, hanno cabine molto grandi, e la funivia del Renon è uno degli esempi di questi impianti di risalita. Si parla però ancora di neve, di sci, anche in altre pagine del nostro mensile Il. Ad esempio ci sono degli impianti, io non lo sapevo, ma pare che siano anche abbastanza diffusi ormai, di sci al coperto. Sciare al coperto per avere a disposizione una vera e propria palestra di fondo, come la Definisce l'articolo di Alessandro Melazzini. Alessandro Melazzini è andato a visitare il circuito di Oberhof in Germania, è un circuito che comprende tre anelli, si chiama Ski Sport Halle, è stata costruita in 8 mesi, inaugurata a settembre scorso, è costata 14 milioni, una cifra che però si conta di recuperare sia mettendo a disposizione l'impianto per gli atleti che hanno necessità di allenarsi con qualsiasi condizione climatica, sia per gli stessi turisti e appassionati che possono praticare lo sci da fondo su tre anelli. Qual è il vantaggio di sciare al coperto? Che si scia in condizioni perfette, ottimali, non c'è vento, non c'è disturbo, la neve è perfetta, ovviamente non ci sono elementi che possano turbare la perfezione del gesto. Questo naturalmente li fa preferire questi impianti a chi si deve allenare, ma pare sia anche molto gradevole per i semplici appassionati. E con questa segnalazione, tra l'altro, vi segnalo che in Germania ci sono già 4 impianti di questo tipo, quindi sono decisamente all'avanguardia per quel che riguarda la costruzione di impianti sciistici al coperto, quasi un ossimoro se volete. Con questa segnalazione, dicevo, concludiamo la nostra puntata di oggi. Vi do appuntamento naturalmente a domani mattina, sempre alle 8:30, per la puntata domenicale di Magazine 24. Ringrazio Pietro Lacorte che ci ha assistito stamane in regia, con me a preparare questo programma Manuela Sicuro e Vittoria Mussini. Ci sentiamo domani mattina.